In questi tempi complicati abbiamo pensato di usare la nostra voce per parlare di cambiamenti che attraversano le città. La metropoli della rendita, del greenwashing, del tecnocapitalismo sembra un Moloch in grado di regolare le nostre vite fisiche e penetrare il nostro immaginario. A questo punto ci tocca ragionare partendo da una domanda, se possibile radicale. Che cosa significa affermare il diritto alla città oggi? La nostra indagine parte da Milano, il luogo in cui viviamo, e si espande al resto dell'universo, non perché Milano sia il centro dell'universo, ma perché ogni modello è replicabile in scala e ogni situazione particolare ne contiene una più grande, che ci coinvolge tutti. Questo podcast si chiama Fuori Fase. Le musiche sono di Le Gros Ballon e lo produce il collettivo politico Off Topic Lab. Questa puntata parla di mobilità ai tempi del Covid e lo fa con gli attivisti di ATM Pubblica, Priorità alla Scuola e Fridays for Future. Durante la fase 1 il trasporto pubblico è stato progressivamente ridotto quanto a frequenza di servizi, fino ad arrivare a un servizio simile a quello normalmente erogato nel mese di agosto per quanto riguarda i servizi di ATM Milano. Obiettivamente il calo del numero di passeggeri è stato molto forte, pur con differenze notevoli tra la città e l'Interland. C'è una capacità di carico dei veicoli che è ridotta a meno di un terzo di quella ordinaria. La metropolitana di Milano trasportava a regime 1.400.000 passeggeri in un giorno feriale medio. Trenord a livello lombardo ne trasportava 800.000, ecco, se riduciamo questi valori a un terzo, quindi il valore attuale, ci sono 1.500.000 di persone che non usano i mezzi di trasporto. Questa era la testimonianza di un attivista del comitato ATM Pubblica, che abbiamo raccolto durante la fase di lockdown, la scorsa primavera, quando abbiamo cominciato a interessarci allo stato del trasporto pubblico milanese colpito dal Covid. Fortunatamente, dallo scorso 4 maggio, la fase 1 è finita, e la città è ripartita, come ha spiegato bene il nostro sindaco Sala. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare, a lavorare, a lavorare, a lavorare, a lavorare. A lavorare, a lavorare. Uno dei segni più evidenti del nuovo ritorno alla normalità è stato l'esercito di monopattini elettrici che ha invaso le strade. Ad agosto 2020 i noleggi erano circa 7.600 al giorno, il 400% in più rispetto a quelli di febbraio dello stesso anno. La risposta ideale per uscire dalla crisi dei trasporti sarebbe stata il forte potenziamento dei mezzi pubblici, anche in vista dell'autunno, per fare viaggiare le persone in sicurezza senza incrementare il traffico individuale, in un sistema in cui anche le aziende avrebbero dovuto fare la loro parte, garantendo orari di ingresso e uscita elastici e un'organizzazione del lavoro tesa a ridurre al minimo gli spostamenti. Invece, dal punto di vista pubblico si sono fatte altre scelte. Prima di tutto l'interruzione dell'area C e B, che è nuovamente attiva solo dal 15 ottobre. Poi il piano di realizzazione di 35 km di piste ciclabili, annunciato in pompa magna come fosse il nuovo Green Deal, che ha valso al comune la menzione sul Guardian di città green. E infine, come abbiamo accennato, il potenziamento dei servizi di noleggio dei veicoli elettrici, soprattutto monopattini, che sono arrivati a una flotta di quasi 6.000 mezzi. Si tratta veramente di interventi green, inclusivi, e in grado di ridurre il traffico privato? Allora, innanzitutto il monopattino elettrico non è un mezzo di spostamento pulito. È in realtà un servizio privato dai costi fra l'altro piuttosto elevati. Una corsa in media costa dai 3 ai 5 euro, molto più per esempio di un biglietto della metro, un prezzo che sicuramente non è inclusivo. Poi è interessante anche ragionare, secondo me, sulla disfida dietro all'arrivo di soggetti di mercato nello scenario milanese a gestire questo servizio di sharing, il cui esito sembra giunto proprio con una sentenza del TAR Lombardia che afferma che il noleggio di monopattini non costituisce in questo caso un servizio pubblico, quindi universale, quindi accessibile a tutti, quindi un servizio di pubblica utilità, ma semplicemente un servizio privato che va autorizzato e regolamentato proprio per evitare che il crei danno. Il TAR Lombardia parla proprio precisamente anche del noto e famoso decoro pubblico. Per quanto riguarda l'investimento sulle piste ciclabili, invece, si è parlato prima di 22 chilometri, che sono quelli che verranno realizzati nei prossimi 3 mesi. Poi, in un tempo indefinito, l'obiettivo è quello di arrivare ai 35 chilometri. Queste nuove piste ciclabili derivano da un investimento di 3,5 milioni di euro da parte dell'amministrazione comunale, che per dare un raffronto è un dato che sta dentro agli 8 miliardi di euro di bilancio annuo. Non ci sembra adeguato se non per disegnare semplicemente le strisce della ciclabile. Una città a portata di bici significa ridisegnare in maniera importante l'ambiente urbano. Area C in questi giorni è tornata a livelli pre-Covid. La metro viaggia con poco più del 50% rispetto allo scorso anno. Davanti a questi numeri ci si rende conto che nel breve periodo siamo davanti ad un ritorno al passato, ad una mobilità dolce che rimane in questo momento solo un'alternativa utile per una fascia ristretta della popolazione che lavora magari in centro, che ha un tenore di vita particolare. Di conseguenza ci sembra un po' assurdo sentir parlare di svolta storica da parte dell'amministrazione comunale. Questa svolta, secondo noi, non esiste nemmeno a questo punto come fase embrionale. Dunque, la tanto sbandierata svolta green pare più simile a un'operazione di facciata, che serve solo a nascondere lo storico ritardo accumulato negli anni sulle piste ciclabili e a fare l'ennesimo favore alle società private dei servizi di sharing, che con la scusa di fare bene all'ambiente fanno anche un sacco di soldi. Il classico modello greenwashing, per intenderci, fiore all'occhiello della moderna Milano. Con l'arrivo dell'autunno e la ripartenza delle scuole, i nodi del trasporto pubblico vengono al pettine. Governo e regioni hanno deciso che gli utenti trasportati non devono superare l'80% della capienza massima dei mezzi. La maggior parte delle scuole, soprattutto le scuole superiori, sta abbinando già una quota di lezioni in classe a una quota di didattica a distanza. Ma i mezzi nelle ore di punta sono strapieni di studenti, tanto che con l'aumento dei contagi di questi giorni potrebbero essere loro a pagare il prezzo più alto. Un attivista di Priorità alla Scuola ci parla del possibile ricatto al sistema scolastico. Nello specifico delle scuole, cioè abbiamo il paradosso per cui all'interno di queste scuole, no, oggi, il modo in cui hanno riaperto, si moltiplicano casi che definirei quasi fobici, di falsa prevenzione, tipo la quarantena dei libri o possibilità di lavorare in gruppo nonostante l'utilizzo di mascherine, ma al contempo per arrivarci dentro a queste scuole e per tornare a casa, no, siamo tutti schiacciati come sardine sui pochi mezzi pubblici, diciamo, messi a disposizione. Questo, oltre ad essere, diciamo, drammatico di per sé, no, è un aspetto irresponsabile, perché non farà altro che poi far ricadere sulle scuole, come è successo in tutti questi mesi con i bambini, con i runner, con i migranti, la colpa, no? Questa colpa del diffondersi dell'epidemia. Questo assembramento produce, diciamo, un ulteriore effetto negativo, questo assembramento, no, sui mezzi pubblici, che è quello che molti più genitori del solito hanno deciso di portare i bambini e le bambine a scuola con la macchina privata, no? Per poi andarci al lavoro saltando appunto l'inferno dei mezzi pubblici. A A parziale difesa della categoria, va detto che il potenziamento del trasporto pubblico locale è una faccenda a forte inerzia, nel senso che per modificare il sistema in modo consistente occorrono tempi lunghi e un notevole sforzo progettuale. Mancando questi ingredienti, la richiesta di incremento di mezzi e corse rischia di evolversi verso un banale aumento del traffico, come stiamo già notando, oppure nell'ingresso di nuovi gestori privati nel sistema, un ingresso che verrebbe fatto passare per salvifico in un momento di crisi della mobilità, facilitando gare, selezioni o concorsi, con tutte le conseguenze che possiamo immaginarci sulla sicurezza, sui diritti dei lavoratori e sull'attenzione alle utenze deboli. Il vero problema in questa fase è che la spinta privatizzatrice nei confronti del trasporto pubblico crea degli enormi problemi, perché anche quando le istituzioni hanno cercato di aumentare il numero di veicoli sulle tratte, hanno incontrato delle resistenze perché le imprese private continuano a ragionare in un'ottica costi-benefici e naturalmente non hanno nessun interesse a imbarcarsi in una situazione che è difficile da interpretare dal punto di vista imprenditoriale. Il congelamento del progetto Milano Next di inizio ottobre è l'esempio perfetto che spiega il fenomeno. Milano Next è, o era, un cartello di aziende capitanate da TM, che vedeva al suo interno soci come A2A e IGP Deco, che gestisce la pubblicità sui mezzi ATM. Il cartello si era candidato per gestire il trasporto pubblico all'interno di una parte del bacino territoriale di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Addirittura voleva occuparsi di costruire le infrastrutture attraverso lo strumento del project financing, quello che per esempio ha finanziato la Brebemi. L'impressione comune è che la crisi innescata dal Covid abbia reso evidente il rischio che il progetto non sia una gallina dalle uova d'oro, ma possa diventare un problema, perché nel momento in cui ci si trova a gestire un servizio pubblico fondamentale per i cittadini, non si può pensare di farci solo profitti. In altre parole, non è più un buon affare, quindi i privati scappano e non se ne vogliono più occupare. Quello che diciamo come comitato ATM pubblica è che a questo punto forse bisogna guardare in faccia la realtà e capire che per gestire il trasporto pubblico è necessario procedere alla ripubblicizzazione di ATM, ma anche di tutte le agenzie, le aziende di trasporto che agiscono sul territorio, perché soltanto attraverso una gestione pubblica, quindi attraverso aziende speciali di diritto pubblico, è possibile fare una pianificazione concreta e non trovarsi incastrati ogni volta nel tema degli appalti, nel tema degli interessi particolari, nelle contrattazioni legate ai desideri di fare profitto da parte delle varie aziende private. Il trasporto pubblico è qualcosa di fondamentale, è garanzia di un diritto che è sancito anche nella Costituzione e di conseguenza deve poter essere erogato in maniera ottimale per tutti i cittadini e cittadine, indipendentemente dagli interessi di questo o quell'altro investitore privato che pensa di poterne cavare un po' di soldi. È un diritto, come la salute e il lavoro. La decisione di rendere completamente gratuiti i mezzi pubblici, come ha fatto Tallinn, capitale dell'Estonia, o il Lussemburgo, ha introdotto un nuovo termine di paragone sullo sviluppo futuro del trasporto pubblico locale. Meno emissioni inquinanti, più parità di diritti, meno stress. A quale prezzo, però? Il trasporto pubblico gratuito è un modello realizzabile in una città come Milano? Se vogliamo il servizio pubblico gratuito a Milano, la lotta è ovviamente necessaria. Innanzitutto dobbiamo fare delle considerazioni su quanto questo ci possa costare alla città. Senza cambiare il modulo produttivo, quindi l'ATM e i servizi che eroga, il costo oscillerebbe fra i 450 milioni di euro annui, che corrispondono all'importo da bilancio sugli incassi derivati dai biglietti, a cui ovviamente poi ci sarebbe da sottrarre le ingenti risorse dedicate al controllo di questi, che non sarebbero più necessarie. Sono da definire, ma potenzialmente potrebbero essere in grado di ridurre di un terzo la cifra. Milano poi è una città particolare perché sul bilancio dell'azienda dei trasporti pubblici il biglietto influisce dal 50 al 60% ogni anno, mentre a livello nazionale influisce sul 25-30%, quindi è anche un investimento più importante andare a fare questo tipo radicale di passaggio in città. La misura però è possibile evidentemente, ma è difficile pensare che una volta attuata chi gode di alti redditi non debba comunque contribuire di più, così come è difficile pensare che le aziende che usufruiscono di un servizio che comunque porta i propri lavoratori a due passi dall'ufficio tutti i giorni non debbano contribuire attraverso anche loro a una qualche forma impositiva. Allargando il campo d'indagine all'intero territorio nazionale, come abbiamo sentito, i biglietti coprono in media il 25-30% dei costi totali del trasporto pubblico, una percentuale che rende ancora più evidente il ruolo dello Stato come principale finanziatore di questo servizio. In pratica, secondo gli ultimi dati, dai biglietti in tutto il paese arrivano soltanto 3 miliardi e 800 milioni di euro all'anno. Questo significa che con un investimento di 3 miliardi e 800 milioni di euro si potrebbero dare trasporti gratis a tutte e tutti su tutto il territorio italiano. E a nostro giudizio questo è qualcosa che permetterebbe di gestire in maniera completamente diversa il trasporto pubblico, permetterebbe anche dei risparmi sotto certi profili, perché non si dovrebbero più fare banalmente i controlli per vedere chi viaggia a scrocco, ma soprattutto creerebbe un cambio culturale fondamentale per cominciare a considerare il trasporto pubblico come un patrimonio comune e soprattutto riuscire a far valere quella regola per cui chi ha di più paga di più e contribuisce a fornire un servizio fondamentale come il trasporto attraverso la fiscalità generale, naturalmente in un'ottica di una fiscalità generale assolutamente progressiva, in cui chi guadagna più soldi contribuisce in misura maggiore alle spese comuni. Chiudiamo questo podcast con una riflessione sulla complessità. È una lista di rivendicazioni che, se oggi appare quasi utopia, in realtà costituisce uno dei fronti di lotta e di attivismo più concreti dei prossimi anni. A livello di mobilità urbana, che cosa auspichiamo come soluzione? Allora, prima di tutto riteniamo che come soluzione primaria, proprio base, i trasporti debbano essere gratuiti per tutti. Sempre che i mezzi vengano elettrificati non entro il 2050 e neanche entro il 2030, ma entro 2-3 anni. Questo è fondamentale. Con una città che dispone di mezzi elettrificati e di possibilità per tutti di prendere i trasporti, riteniamo che il traffico automobilistico verrebbe drasticamente ridotto. Importante però è la considerazione di tutto questo all'interno di un disegno più grande. La natura è complessa, per tornare a pensare al mondo in un modo naturale bisogna pensare in un modo complesso, non esistono soluzioni facili. Quindi tutta la città va ripianificata, prima di tutto per esempio le auto andrebbero messe in tutta la città a 30 all'ora e vanno ridisegnati interi ambiti della città, in particolare vanno considerate le piste ciclabili ovunque e soprattutto tempi di vita pedonabili e ciclabili, quindi non tempi di vita senza la possibilità di una sosta, ma vanno riconsiderate queste cose tutte insieme. Questo podcast è una produzione del Laboratorio Politico Off Topic. Per approfondire queste tematiche puoi trovarci sul sito offtopiclab.org oppure seguire il nostro canale Telegram Off Topic Lab. Se poi vuoi conoscerci di persona, tutti i martedì sera dalle ore 21 ci trovi allo spazio sociale Piano Terra, in via Federico Confalonieri 3, al quartiere Issola. A presto, ciao!